Il punto di Stefano Folli. La dinamica e le responsabilità degli incidenti di ieri a Roma nei pressi della stazione vanno chiarite in fretta e speriamo che sia possibile farlo anche in Parlamento. Occorre capire come mai una manifestazione di poche centinaia di lavoratori delle acciaierie di Terni sia sfociata in scontri di una certa gravità con la polizia, scontri che hanno coinvolto lo stesso segretario della FIOM Landini. Qualcuno ha sbagliato e si deve capire chi. In ogni caso è incomprensibile che non siano stati fatti accordi preventivi fra gli organizzatori e i vertici dell'ordine pubblico per evitare che la situazione sfuggisse di mano. La crisi economica nel paese è grave, ma gli italiani la sopportano con notevole spirito di sacrificio. Ecco perché incidenti come quelli di Roma possono costituire un detonatore assai pericoloso. Rischiano di innescare quella spirale di tensioni sociali che finora si è riusciti a contenere. Tanto più in un momento in cui l'asprezza polemica fra governo e sindacati è molto alta. C'è bisogno di buon senso in certi frangenti.